vorrei parlare di te. Vorrei parlarti di un sogno, emozione sbocciata in silenzio, di un enorme impossibile amore. Del tuo nome vorrei recitare, dei tuoi occhi dai mille colori, di una sera di pioggia e di vento, di un messaggio perduto nel tempo. Sei ciò che amo di te, capricciosa e viziata infedele. Tu saresti tormento e paura, il terrore di un'avventura. Ma mi piace pensare di te, alle volte io sogno di te, coi capelli tuoi sulle mie labbra, le tue dita là sopra di me, coi capelli tuoi sulle mie labbra, le tue dita là sopra di me.